Gli americani che sono bravi nel coniare le espressioni, che cosa hanno coniato tanto tempo fa? L'espressione che è sulla bocca di tutti, business is business. E cosa vuol dire? Vuol dire gli affari sono affari. Ditemi voi cosa vuol dire questa espressione. Vuol dire che quando si fanno affari non si guarda in faccia a nessuno. E i valori, ad esempio di natura etica, vengono messi in... Poi i valori di natura etica li tiriamo fuori dalla cantina quando entriamo nel sociale. Allora sì, ad esempio la solidarietà è un valore etico. Dobbiamo ricordarci che gli altri hanno diritti e che gli altri... siamo legati agli altri da vincoli sociali nel momento in cui la torta che è stata prodotta viene. Ora non c'è bisogno di essere filosofi morali per capire che questa è una idiozia dal punto di vista concettuale, perché a poco serve massimizzare la torta, la dimensione della torta che è il PIL, se per fare questa operazione io violo i diritti umani fondamentali, quei diritti umani in nome dei quali provvedo poi a ritagliare la torta. Eppure anche menti illustri sono cadute negli ultimi due secoli in errori concettuali di questo tipo. La seconda, direi, separazione, dicevo, è quella tra lavoro e ricchezza. Anche questo è un punto che chiama già età anziana, come lo sono io e altri che vedo qui presenti, può testimoniare sulla base dei propri ricordi. Fino a 30 anni fa l'idea corrente, che è cristallizzata nei testi, nei libri, nella letteratura in senso lato, era sempre stata la seguente: che all'origine del processo di creazione della ricchezza c'è il lavoro. Può trattarsi del lavoro intellettuale o del lavoro manuale, del lavoro dei campi o del lavoro industriale, di un tipo o dell'altro, non importa, ma è il lavoro umano l'origine. Tanto è vero che Adam Smith, da tutti citato, apre la sua Ricchezza delle Nazioni nel 1776 esattamente con questa dichiarazione: all'origine di ogni ricchezza, di ogni nazione, c'è il lavoro umano. Cos'è accaduto negli ultimi 30 anni? E qui c'è una grave responsabilità degli accademici, ovviamente più di una qualche categoria, qual è quella della professione a cui io appartengo, cioè degli economisti, ma anche di sociologi, antropologi, eccetera. È avvenuto un mutamento di 180 gradi del seguente tipo: il lavoro non è più l'origine della ricchezza. All'origine della ricchezza c'è l'attività speculativa finanziaria e quindi non c'è bisogno di lavorare, perché il lavoro ritarda la creazione della ricchezza, quindi non va bene. Vuoi diventare ricco in fretta? Se lavori perdi tempo, perché per diventare ricco col lavoro ci vogliono anni e poi lustri o decenni. Invece, se ti specializzi nell'attività speculativa, hai un po' di fortuna, un po' di abilità, eccetera, in poco tempo ti puoi arricchire. Voi capite che questa inversione, chi ha occhio vigile, lo vede, ad esempio, a cominciare dal modo in cui sono scritti i libri di testo, come si chiama, i sussidiari delle scuole elementari. Andatevi a leggere i libri delle scuole, io adesso sono... nonno, ho già quattro nipoti, sono alle scuole elementari, quindi osservo, una cosa incredibile. Io ricordo le letture che la maestra, quando frequentavo le elementari, erano storie, storielle, la cui filosofia di fondo era sempre centrata sul lavoro, in un modo, adesso non è più così, adesso la ricchezza è legata alla fortuna, è legata alla furbizia, all'abilità, eccetera, e questo avviene già dall'elementare. Poi ci dobbiamo meravigliare se i nostri giovani vivono il disagio che chi sta in mezzogiorno osserva. È evidente, perché mentre se io dico è dal lavoro che viene la ricchezza, tutti sono in grado di lavorare e devono poter lavorare, se dico che invece il tuo star bene dipende dalla fortuna, dalla tua furbizia o dalla tua capacità di accettare compromessi di natura morale, mica tutti sono disposti, e quindi vengo a dire, per alcuni non c'è prospettiva, e dopo i nostri giovani si deprimono nelle forme che possiamo facilmente immaginare. Ma soprattutto questa inversione del nesso causale tra lavoro e origine della ricchezza ha evidentemente fatto dimenticare il significato profondo del lavoro, tant'è vero che oggi il lavoro viene confuso con l'occupazione. Se non credete a me, provate a chiedere, cominciare dai sindacalisti e altri: cos'è per te il lavoro? Il lavoro vuol dire avere il posto di lavoro, cioè l'occupazione. Ma vogliamo ridurre il lavoro, la laboriosità umana, la occupabilità? È chiaro che la occupazione è fondamentale, chi lo può negare? Ma vogliamo ridurre il lavoro solo all'occupazione? Come dire che se tu per campare non hai bisogno di quel reddito, allora scegli di non lavorare, allora preferisci non lavorare. Ora, non c'è bisogno di essere in questo caso teologi per capire quanto la dottrina sociale della Chiesa ha messo al centro il lavoro. A partire da l'Oret Labora di Benedetto, di San Benedetto, fino a tempi più recenti, pensate alla Labora Mercensis e altri documenti, dove si dice che il lavoro è fondativo della persona umana. Cioè dire che noi, contrariamente alla civiltà greco-romana, che si era edificata sul modello dicotomico ozium-negozium, per cui il negozio, cioè il lavoro, era per gli schiavi, per i servi, loro dovevano lavorare, le persone libere potevano, ozio, lo sapete, non è l'ozio nel senso corrente, era lo studio, la contemplazione, la meditazione, eccetera, o se volete la cultura, e arriva Benedetto, San Benedetto, che dice no, oret labora, che vuol dire che il lavoro viene messo allo stesso livello della preghiera. E voi capite che rivoluzione copernicana fu quella? Da una civiltà, durata, e quale civiltà quella greca, che diceva che il lavoro era qualcosa di inferiore, vi arriva un personaggio come San Benedetto che dice il lavoro ha la stessa dignità della preghiera, perché è attraverso il lavoro che tu dici, quindi è la persona libera che deve, perché è attraverso il lavoro che si acquisisce la libertà e si dilatano gli spazi della libertà e così. Ebbene, in questi ultimi 30 anni è venuto esattamente questo. E si è perso questo concetto. Poi, se uno è credente, sa qual è il significato per il cristianesimo del lavoro, che è il completamento dell'opera della creazione. Perché Dio, i cristiani sanno che non ha creato il mondo, ma non l'ha finito. Perché dopo, al settimo giorno, si era stufato, si è riposato anche lui. Ed è un messaggio molto chiaro questo. Perché ha voluto che fosse la libertà degli uomini a completare l'opera delle sue mani, quell'opera che appunto volutamente non è stata completata, eccetera. Se uno non è cristiano, sottolinea di più l'altra dimensione. Ed è interessante, se uno legge ad esempio gli scritti giovanili di Marx, non il Capitale, che è opera della maturità, ma se uno legge gli scritti giovanili di Marx, sono veramente il pezzo di bravura di Marx, cosa che però non viene mai citata, Marx arriva molto vicino a questa concezione del lavoro, che non è il lavoro come fattore di produzione per ottenere un reddito, eccetera, ma il lavoro come liberazione, eccetera. Ovviamente la cosa poi ha preso nel marxismo una certa piega, come sappiamo, e così via. Ecco, allora vedete come questa separazione, aver separato lavoro da ricchezza, è oggi alla radice di uno spaesamento dei soprattutto, non solo, ma soprattutto dei nostri giovani. E chi è nell'università, io insegno in una facoltà di economia, ve lo posso testimoniare, andate a vedere quali sono le specializzazioni dentro la facoltà di economia, i corsi di laurea cosiddetti, che vengono, almeno fino a 2 anni fa, privilegiati dagli studenti. Andate a vedere quali sono le loro scelte. Questi, da quando è scoppiata la crisi, già abbiamo avuto un calo del corso di laurea di finanza e mercati finanziari. Sono tornati a iscriversi ai corsi di laurea di economia industriale, economia agraria, economia dei servizi, dell'innovazione, ma non quello. Infine, la terza separazione di cui dicevo, quella tra mercato e democrazia. E questa pure c'è nella enciclica una analisi che ha sorpreso i più, ed è il motivo per cui gli Stati Uniti sta avendo un successo. Come vi dicevo, prossimo aprile l'Università di Princeton, che è una delle top 10, dedicherà un seminario all'enciclica, e il mese dopo, maggio, all'Università di Chicago, la gloriosa Università di Chicago, mai era accaduto in passato, perché si comincia a capire, se uno la legge bene e non in maniera superficiale, che c'è in questa enciclica una denuncia di quella che è la causa, forse la più profonda delle cause remote anche dell'attuale crisi economica. E cioè aver separato il mercato dalla democrazia.